sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Gheddafi incontra gli imprenditori e promette le imprese italiane avranno la priorità in Libia. Tanto rumore per nulla? Dopo i litigi, la Ferrari è iscritta con riserva al prossimo mondiale di Formula 1. Iran al voto, in fila per decidere il futuro del discusso a Ahmadinejad. Molte le donne, vero ago della bilancia. L'FBI scopre 50 milioni di dollari trafugati a multinazionali delle comunicazioni per finanziare terroristi vicini ad Al-Qaeda, la base nell'italianissima Brescia. La rivoluzione Gelmini arriva ai licei, nasceranno quello musicale e quello delle scienze umane, latino per tutti e più matematica. Amanda sul banco dei testimoni per l'omicidio di Meredith a Perugia, America e Gran Bretagna stanno a guardare e piovono critiche sulle indagini italiane. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. E dunque, dopo le polemiche sul colonialismo, le proteste alla Sapienza, l'attacco all'America dalla sala del Palazzo del Senato italiano, oggi il leader libico Gheddafi incontra gli imprenditori. Poi vedrà circa 1000 donne italiane della politica, delle istituzioni e della imprenditoria. Prima però un'altra notizia, tutta da decifrare. Sì, perché vogliamo raccontarvi l'ultima svolta, l'ultima sorpresa della Formula 1. Tanto clamore per nulla, verrebbe davvero da dire. È così, Carlo Genta? È così fino a un certo punto, sarebbe bene, buongiorno a tutti per cominciare, sarebbe tutta da capire anche per noi, perché in realtà tanto rumore per nulla sembra di sì a leggere il comunicato della Federazione Internazionale dell'Automobile, della FIA, che ha diramato la lista dei partecipanti al prossimo mondiale, lista che comprende anche la Ferrari. 13 squadre iscritte, 3 novità, la Campos Grand Prix, la Manor Grand Prix, la Team USA Formula 1, ma queste sono tutte cose che si sapevano. 5 dei 13 team iscritti con riserva, McLaren, BMW, Renault, Toyota e Brown GP, invitate dalla FIA a togliere le condizioni affinché le discussioni siano concluse tra una settimana. Ci sono quindi iscrizione condizionata per questi 5, non per la Ferrari. Dunque la Ferrari compare in questa lista. Però il cavallino ha subito replicato con un comunicato che recita quanto segue: la Ferrari non parteciperà al campionato del mondo di Formula 1 finché le condizioni legate alla sua iscrizione, ovvero la modifica del regolamento, non siano soddisfatte. Appunto questa la parola della Ferrari, che aggiunge: il 29 maggio la Ferrari ha presentato un'iscrizione al mondiale soggetta a determinate condizioni che non sono ancora state soddisfatte. Nonostante ciò, si legge nel comunicato, e nonostante un invito scritto alla FIA a non procedere in tal senso, la federazione ha incluso la Ferrari nella lista come partecipante senza condizione al prossimo campionato del mondo. Al fine di evitare ogni dubbio, la Ferrari riafferma che non parteciperà al Mondiale di Formula 1 2010 con un regolamento adottato dalla FIA in violazione dei diritti della Ferrari sanciti da un accordo scritto con la federazione. Dunque, la battaglia è ancora in atto, la Ferrari è stata inclusa in questa lista, ma un po' contro la sua volontà, o meglio, non sono stati sciolti dalla FIA quei nodi che sono stati posti dalla Ferrari come condizione per la partecipazione al mondiale. Insomma, altro incrocio di carte, ma in realtà la battaglia andrà avanti. Non è chiusa la vicenda Ferrari in Formula 1. Grazie Carlo Genta. Noi invece andiamo avanti con, come detto, la visita, il terzo giorno della visita di Gheddafi oggi in Italia. Vincenzo Miglietta, oggi in primo piano l'incontro con gli imprenditori. Sì, buongiorno, è così, una platea, quella degli imprenditori, decisamente in sintonia con le prospettive economiche illustrate dal colonnello libico, un'occasione, quella di stamani, per ricordare gli stretti legami sociali che uniscono i due paesi da diversi decenni. La presidente di Confindustria Emma Marcegaglia ha auspicato che la collaborazione già in atto tra Italia e Libia possa aumentare ulteriormente. Da qui il giudizio positivo del leader degli industriali sul progetto annunciato da Gheddafi di creare una zona franca in Libia proprio per le aziende italiane. Guardiamo con favore, ha aggiunto Emma Marcegaglia, anche agli investimenti libici in Italia, tra questi il recente ingresso in Unicredit in Libia. Ha detto invece Gheddafi c'è ampio spazio per le imprese italiane che saranno favorite, ha detto, nei settori energetici. Attenzione però a non usare la corruzione, ha avvertito il leader libico. Poi una frase di Gheddafi che susciterà sicuramente polemiche: con il governo Berlusconi, ha detto, le imprese italiane sono favorite rispetto ad un governo di sinistra. Il colonnello sarà tra breve ad un incontro con il mondo femminile organizzato dal ministro Carfagna. Nel pomeriggio sarà la volta della Camera dei Deputati. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Noi tra poco torneremo a parlare della visita di Gheddafi in Italia, di tutti i capitoli connessi. Parleremo anche con una donna italiana che la Libia ha dovuto lasciarla su ordine di Gheddafi 40 anni fa. Una truffa internazionale sgominata a Brescia. Rubavano, pensate, soldi a colossi multinazionali per finanziare gruppi vicino ad Al-Qaeda. Indagine scoperta anche con la collaborazione dell'FBI. All'apparenza era un normale phone center nel centro storico di Brescia. In realtà si trattava del cuore di una truffa da oltre 50 milioni di dollari, realizzata grazie a sistemi di hackeraggio dei centralini telefonici di centinaia di società sparse per il mondo e che, secondo gli investigatori italiani e statunitensi, è a forte sospetto di collegamenti con formazioni estremiste islamiche attive nel sud-est asiatico. Il blitz questa notte, dopo 3 anni di indagini condotte da Uchigos FBI, 5 arresti, 16 denunce a piede libero. In manette 2 coniugi pakistani residenti a Brescia. Erano loro a ricevere dagli hacker filippini i codici per violare i centralini, cui venivano addebitate migliaia di telefonate verso Pakistan, Iraq, Afghanistan, Arabia Saudita e Iran, gli stessi paesi dove finivano i proventi della truffa. Il procuratore capo di Brescia, Pace. Per ora è soltanto una ipotesi, sia pure accreditata da alcuni elementi significativi. Al centro dell'indagine Mohamed Zamir, titolare del phone center bresciano. Gli investigatori lo hanno collegato all'hacker filippino Nusier, a sua volta legato a Mohamed Khalifa, cognato di Osama Bin Laden. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. L'economia mondiale mostra i primi segnali di ripresa, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, grazie al risveglio della Cina, e il Fondo Monetario rialza le stime sulla crescita per il 2010. Si aprono con queste note di ottimismo oggi a Lecce i lavori del G7 delle finanze, più anche la Russia, che dovranno affrontare anche le nuove regole della finanza e dell'economia fortemente volute dalla presidenza italiana per essere approvate al G8 dell'Aquila nel mese di luglio. I lavori entreranno nel vivo nel pomeriggio, ve li racconteremo naturalmente nel corso di questa giornata. Cambia, o meglio cambierà, il volto della scuola italiana. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla riforma dei licei. Maria Piera Ceci. Sì, si tratta dell'approvazione in prima lettura del riordino di una delle due parti della secondaria superiore. Qualche giorno fa, infatti, forse ricorderete la riforma degli istituti tecnici, oggi appunto quella dei licei, che dall'anno scolastico 2010-2011 cambieranno volto. Ovviamente sarà un cambiamento graduale, partirà dalle prime e dalle seconde classi. Questo è un dettaglio molto importante, perché vuol dire che coinvolgerà di fatto chi ha già scelto quest'anno la scuola superiore per il prossimo anno. Entrerà poi a regime nel 2013. Sentiamo come ha spiegato la riforma il ministro della Pubblica Istruzione Gelmini subito dopo il Consiglio dei Ministri. La scuola cambia, guarda al futuro e cerca di formare giovani che abbiano possibilità di realizzare un percorso professionale, proprio perché gli indirizzi, in questo caso dei licei, ma vale ovviamente lo stesso ragionamento per l'istruzione tecnica o professionale, sono indirizzi che intercettano le esigenze del settore produttivo. Così dunque il ministro Gelmini. 6, dicevamo, i licei: liceo artistico, classico, scientifico, linguistico, musicale, coreutico, delle scienze umane. Come linee generali possiamo dire che il latino è presente come insegnamento obbligatorio o quasi, al classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane come opzione negli altri licei. Sono previste più ore in generale di matematica, fisica e scienze, che sappiamo essere un po' le bestie nere dei nostri studenti. Fra le altre novità, al classico si studierà una lingua straniera per tutti e 5 gli anni, allo scientifico si potrà attivare un indirizzo tecnologico in cui salti invece il latino, per quello dicevamo prima quasi. Al liceo linguistico si studieranno 3 lingue straniere, dalla terza liceo un insegnamento sarà impartito tutto in lingua, questa è una novità importante. Dalla quarta liceo poi tutto in lingua straniera, invece anche un secondo insegnamento. Tutti i licei prevederanno 27 ore settimanali nel primo biennio, 30 nel secondo biennio, si tratta di una riduzione rispetto al quadro orario attuale. Ultima annotazione, la riforma stravolge di fatto un impianto che risale alla legge Gentile del 23, spazza via gli attuali 396 indirizzi sperimentali, 51 progetti assistiti dal Ministero e davvero tantissime sperimentazioni già attivate. Grazie Maria Piera Ceci, sono tante le novità che riguardano il liceo, insomma, però c'è tempo per diciamo così, assorbirle, perché si parte insomma, 2010. Nel 2010-2011. Adesso siamo voluti partire dalla scuola, però adesso il resto delle notizie che vengono dal Consiglio dei Ministri, Andrea Viali. Sì, Alessio, innanzitutto il governo oggi ha anche deciso che non verranno processati in Italia i 9 pirati somali, lo ricorderete, che erano stati catturati nelle scorse settimane dalle nostre navi militari nel Golfo di ADEM. Per questo il Consiglio dei Ministri ha approvato stamattina un decreto che prevede la rinuncia da parte dell'Italia all'esercizio della giurisdizione nei loro confronti. I pirati ora saranno trasferiti e processati in Kenya, paese africano vicino alla Somalia, che non prevede la pena di morte e con il quale l'Unione Europea ha di recente firmato un accordo. Su proposta del Ministro della Difesa La Russa, poi il Consiglio dei Ministri ha nominato il generale Leonardo Gallitelli nuovo comandante dei Carabinieri dell'Arma, incarico oggi ricoperto dal generale Gianfranco Siazzu. Infine, il Ministro per la Semplificazione Calderoli ha fatto sapere che oggi è stato anche approvato in via preliminare, uno schema di decreto che cancella dal nostro ordinamento altre 3.000 leggi e ne salva 2.700, tutte pubblicate prima del 1970 che altrimenti sarebbero state abrogate. Queste le altre novità del Consiglio dei Ministri, a voi la linea. Grazie anche Andrea Viali. Una brutta storia, ora ve la raccontiamo in breve. Un bambino di 9 anni si è impiccato ieri pomeriggio nella sua cameretta nell'Interland milanese. Probabilmente il gesto sarebbe scattato dopo una nota che l'insegnante gli aveva fatto per la sua scarsa attenzione alle lezioni. E oggi è la giornata contro il lavoro minorile e ne vogliamo parlare ricordando che il nostro paese purtroppo non è esente. Hanno un'età compresa tra i 5 e i 17 anni. Spesso le aziende li preferiscono agli adulti. Le femmine sono utilizzate nei lavori artigianali, i maschi nel contrabbando e nell'edilizia. È il ritratto dei minori che lavorano in Italia, 200.000 secondo i dati Istat e 400.000 secondo rilevazioni sindacali. Ma il numero potrebbe crescere, causa la crisi economica e finanziaria che spinge le stesse famiglie a far abbandonare gli studi ai bambini. Il ministro del lavoro Maurizio Sacconi ha tracciato le linee guida della lotta allo sfruttamento minorile. Individuare le forme peggiori di sfruttamento dei minori, mirare quanto più l'attività ispettiva con particolare attenzione non solo alle forme davvero peggiori quali l'impiego nella criminalità, la prostituzione e l'accattonaggio, ma anche quei lavori di carattere tradizionale ma che hanno particolare pericolosità. In occasione della giornata mondiale contro il lavoro minorile, risultano 1 milione i giovani che lasciano la scuola prematuramente per lavorare. Il presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo, spiega come combattere questa piaga sociale. Creare una sensibilità negli adulti, soprattutto nei genitori, perché non diano al bambino questo percorso di vita così negativo. Questo vuol dire anche però far sì che la scuola sia presente, che quando c'è un abbandono scolastico ci sia un'attenzione particolare e anche ovviamente occorre che ci siano misure di contrasto forte. Maria Grazia Pusceddu, GR24, Il Sole 24 Ore. Crisi sì, ma non per il calcio. In Spagna sembra essere così, almeno per il Real Madrid. Per ogni giocatore che parte ne arriverà un sostituto adeguato. È partito Maldini, è arrivato Thiago Silva, è partito Kakà, arriverà un giocatore importante. Il Milan non sta affatto smobilitando. Povero Galliani, costretto come Pinocchio a ripetere che il Milan rimarrà l'invincibile armata degli anni Ottanta, mentre le faraoniche notizie dalla Spagna gettano altro sale sulle ferite del nostro calcio. Una volta, ai tempi di Maradona e Gullit, eravamo noi il campionato più bello del mondo. In pochi anni, a furia di debiti, è diventato anche il più tossico, come i titoli spazzatura della bolla americana. Storditi dalla potenza dei Galacticos, meditiamo sulla nostra nuova povertà, dimenticando che un vantaggio c'è, che grazie alle nuove leggi che ci obbligano a ripianare subito il deficit, non possiamo fallire, come il Manchester che ha un rosso di 800 milioni o Real di Florentino Perez che prima degli acquisti di Ronaldo e Kakà aveva un debito di 450 milioni. Perez ha ragione quando dice che il Real incassa ogni anno diverse centinaia di milioni con biglietti TV e merchandising. Noi invece, oltre che senza debiti, siamo anche senza idee, con vecchi stadi occupati da bande di ultra incattiviti. Anche l'Inter, multinazionale solo nei campioni, non va oltre le vecchie logiche e il Milan vive di ricordi di quando il Papi, le domeniche, stava più a San Siro che a Villa Certosa. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:19 minuti in questo istante, proseguiamo con GR24 Extra Large. E siamo partiti dalla Formula 1, dalla decisione della Ferrari di iscriversi al prossimo campionato, ma è un'iscrizione d'ufficio, manca ancora l'accordo sui regolamenti. E poi, per la cronaca, 50 milioni di dollari scoperti dalla FBI trafugati a multinazionali con comunicazioni dei finanzieri terroristi vicini ad Al Qaeda, avevano base a Brescia. E poi invece per quanto riguarda la riforma della scuola abbiamo parlato della nuova iniziativa del ministro Gelmini. Arrivano 6 licei, nasceranno quello musicale, quello delle scienze umane, tra le novità più latino per tutti. Adesso proseguiamo con la terza giornata della visita di Gheddafi in Italia. Giornata dedicata all'incontro con gli imprenditori e poi con le donne italiane. In questi istanti il leader libico sta ancora incontrando gli imprenditori italiani che, in base al recente accordo tra i due paesi, avranno la possibilità di fare affari in Libia. Il piano di aiuti sottoscritto dall'Italia prevede infatti 5 miliardi di euro in 20 anni, ma soprattutto è la Libia ad avere previsto un piano da ben 50 miliardi di euro in 2 anni. Investimenti che dovranno ammodernare il paese con soldi che vengono direttamente dalle casse dello Stato libico, che secondo alcune stime avrebbe non debiti ma bensì un avanzo di oltre 130 miliardi di dollari, riserve valutarie che a Gheddafi sono arrivate in tasca direttamente dai proventi del petrolio. E allora il nostro Vincenzo Miglietta, che ha seguito l'incontro tra Gheddafi e i nostri imprenditori, ha sentito Paolo Ghirelli, direttore generale della Bonatti, che opera proprio nel settore del gas e del petrolio in Libia ormai da molti anni. Al di là delle dichiarazioni oggi del leader libico, in base alla sua esperienza, che prospettive ci sono per l'Italia? E poi, se vuole raccontare anche la sua personale attività nel paese libico. Bene, partendo dall'attività di Bonatti, che è una società di costruzione e servizi all'industria dell'oil and gas, è indubbio che i due paesi in questo settore, l'uno ha necessità di energia, l'altro è un produttore di energia, sono perfettamente complementari, quindi come è stato in passato già i rapporti tra Italia e Libia hanno avuto un ruolo importante nel settore dell'energia, quindi hanno consentito a società come Bonatti di raggiungere ricavi nel paese per circa 100 milioni di euro l'anno. E questo noi lo facciamo ormai da 30 anni di nostra presenza nel paese. Circa le prospettive future, è chiaro che specie in questo momento di crisi i pochi paesi che hanno surplus finanziari sono e restano comunque i paesi petroliferi, i paesi che producono olio e gas, e quindi in questo caso direi che la collaborazione tra paesi che hanno risorse finanziarie e paesi che sono in grado ad aiutarli a costruire le infrastrutture di cui hanno bisogno, in questo caso l'Italia, abbiamo sentito, è al primo posto nella priorità dei rapporti di collaborazione, penso che sia la miglior garanzia per migliorare gli sviluppi economici nel futuro. E ha fatto questo dunque gli imprenditori italiani in Libia, ma ha fatto molto scalpore nei giorni scorsi, 2 giorni fa, anche l'immagine appuntata al petto di Gheddafi al suo arrivo a Roma, l'eroe libico anti-italiano ucciso dai fascisti nel 1931. E c'è chi, vedendo quell'immagine, ha pensato a se stesso. Eh sì, ha sentito il bisogno di tirare fuori un altro scatto d'epoca che raffigura un altro momento difficile nei rapporti tra Italia e Libia. Una storia questa che investe direttamente la vita di molte persone, per esempio anche quella di Maria Imperatore. Buongiorno. Buongiorno. Lei ha inviato questa immagine, questa vecchia fotografia un po' ingiallita, al Corriere della Sera, che questa mattina l'ha pubblicata in prima pagina. Cosa c'è in questa immagine? Si vedono delle donne che scendono da una nave. Sì. Allora, un gran dolore, perché ricordo che purtroppo con questo arrivo di Gheddafi, accolto con questo mega show così, ci ha riaperto le ferite. Noi siamo persone a cui è stato confiscato tutto. Io parlo, mi sono proprio rivista. Lei era tra chi è scesa da quella nave 40 anni fa? Sì, appunto. E come me tantissimi italiani che con molta dignità, senza piagnistei e con un gran dolore, hanno abbandonato ogni cosa, perché gli era stato tolto ogni cosa, insomma con molta tristezza hanno abbandonato, ormai consideravamo la Libia il nostro paese, perché quando andarono gli italiani in Libia non c'era niente, era tutto deserto. Loro, se si trovano la Libia, è grazie al lavoro degli italiani. Quindi noi, cioè, io penso che è lui che dovrebbe ringraziare noi, questa è una mia opinione. E allora questo suo arrivo, diciamo che poteva essere positivo, se mi è consentito dirlo, nel senso che coprire, diciamo, rivedere la storia in un altro modo è anche giusto, perché insomma non si può restare fermi, bisogna rivisitarla, però in modo anche da ascoltare un po' tutte le voci. Senta, ma per esempio sulla richiesta sulle scuse che l'Italia ha dato proprio a Gheddafi, secondo lei sono state ben poste alla fine? Lei cosa ne pensa? Purtroppo non sono d'accordo, perché io capisco che il business, diciamo, è un interesse, per cui bisogna tante volte comportarsi insomma in modo così non condivisibile, però non sono d'accordo, perché anche noi dovremmo dovrebbe chiedere scusa anche a noi, a tutti quegli italiani che hanno lavorato, che si sono sacrificati e che hanno reso possibile un terreno incolto, hanno eroso il deserto, si sono allargati a 40-50 chilometri dentro il deserto, creando villaggi, loro vivevano solo in quelle poche oasi di poco orzo e di pastorizia. Senta. Gli hanno creato dei giardini, gli italiani hanno costruito le strade. Lei ci tornerà in quella... Sono sprofondate, ha capito? Allora, quali scuse? No, gli italiani che sono morti lavorando, sacrificandosi in quelle terre... C'è un grande affetto, c'è un grande ricordo e grandi dolore davvero nelle sue parole. Tra i vari punti di questo accordo c'è anche la possibilità per gli italiani di tornarci in Libia. Lei ci tornerebbe? Tornare a vedere quei giardini che ci stava descrivendo. Tornerebbe nei luoghi della sua adolescenza? Certamente ci tornerò, se possibile ci voglio tornare, anche se ormai è molto tardi, perché sicuramente da quello che mi dicono è talmente cambiata Tripoli che... forse non è più la stessa, però magari vorrei tornarci, perché abbiamo tanti amici libici che ci volevano tanto bene, che quando siamo partiti piangevano disperati dalla nostra partenza, perché stavamo bene insieme, convivevamo in modo perfetto proprio, c'erano anche con una scuola, i nostri compagni che erano libici, insomma studiavamo insieme, lavoravamo insieme ed era una vita meravigliosa, avevamo il mare. Condividevamo tante di quelle cose insieme, certo, forse ritrovare anche i miei amici, perché forse la città, chi lo sa, forse da quello che mi è stato detto non è più la stessa. Quindi forse però insomma magari la curiosità e adesso anche la possibilità esiste. Noi la ringraziamo, Maria Imperatore, grazie per essere stata con noi. Ricordiamo, italiana rimpatriata in Italia forzatamente 40 anni fa dal regime proprio di Gheddafi. Adesso Anna, spazio invece a un consiglio per la lettura. Siamo ormai vicini al fine settimana, ce lo dà anche oggi Alessandra Tedesco. Si intitola Il giorno dell'indipendenza, l'ultimo romanzo di Letizia Muratori pubblicato da Adelphi. Protagonisti Giovanni, una ragazza americana, Mary, che vive in Italia alla ricerca di alcuni parenti. Dopo la morte del nonno ha deciso di conoscere Ruggero e Isabella, ai quali il nonno periodicamente inviava dei soldi. Scoprirà che in realtà sono dei maiali adottati a distanza. L'autrice al microfono di Alessandra Tedesco. È un broker che lavorava appunto in una banca di investimenti, non ci lavora più, si sta disintossicando, non dagli affari, o meglio anche dagli affari, ma soprattutto dalla cocaina, ed è andato a lavorare in una fattoria, dunque nell'ambiente più lontano possibile dall'economia in cui lui è sempre vissuto. In questa fattoria che cosa si alleva? Si allevano i maiali, che è l'economia proprio più distante da quella finanziaria. Sarà vero, nel libro ci sono molti elementi che in realtà mescolano i due mondi, no? Vediamo che nel mondo dei maiali ci sono molti investimenti quasi finanziari, mentre nella finanza ci sono degli strane economie come di baratto, eccetera. Naturalmente questo è un paradosso, cioè, però a me piaceva mettere a confronto queste due presunte economie per raccontare che in realtà l'economia è una e i problemi sono ovunque, così anche le soluzioni possibili. E vi ricordiamo naturalmente l'appuntamento con Il Cacciatore di Libri il sabato intorno alle 8:20, in replica il venerdì successivo alle 21:05. 13:34 minuti, le notizie di oggi con GR24 Extra Large. Gheddafi incontra gli imprenditori e promette: le imprese italiane avranno la priorità in Libia. Iran al voto in fila per decidere il futuro del discusso Ahmadinejad, molte le donne, vero ago della bilancia. L'FBI scopre 50 milioni di dollari trafugati a multinazionali delle comunicazioni per finanziare terroristi vicini ad Al-Qaeda, la base nell'italianissima Brescia. La rivoluzione Gelmini ora arriva nei licei, nasceranno quello musicale e quello delle scienze umane, latino per tutti e più matematica. Tanto rumore per nulla, dopo i litigi la Ferrari è iscritta al mondiale di Formula 1, ma il cavallino replica, resta il nodo dei regolamenti. Amanda sul banco dei testimoni per l'omicidio di Meredith a Perugia, America e Gran Bretagna stanno a guardare e piovono critiche sulle indagini italiane. E allora andiamo subito a Perugia, dove c'è il nostro Daniele Morini che sta seguendo questa giornata del processo. Buongiorno Daniele. Sì, è proprio il giorno di Amanda Knox a Perugia, nell'aula del tribunale che ospita il procedimento giudiziario per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher. La sua coinquilina 22enne americana di Seattle si è presentata davanti alla corte vestita con un completino bianco estivo, ha scambiato i consueti sorrisi con Raffaele Sollecito, l'ex fidanzato pugliese, e dopo qualche preliminare procedurale ha iniziato la sua testimonianza, ascoltando le domande in italiano e rispondendo quasi sempre in inglese. Sollecitata da avvocati di parte civile, ha chiarito all'inizio i suoi rapporti con Patrick Lumumba, ha giustificato le prime accuse rivolte al musicista ivoriano, dichiarando di essere sotto pressione durante i primissimi interrogatori. Secondo Amanda, sarebbe stato il pubblico ministero a suggerire molti passaggi delle sue dichiarazioni, con la polizia che l'avrebbe maltrattata e persino picchiata. Sentiamo a proposito una sua dichiarazione. For instance, who could I imagine could be the person who... Per esempio, chi avrei potuto immaginare che fosse the person who killed Meredith, la persona che avesse ucciso Meredith. And I said I still didn't know. E ho detto, ma non lo so, ancora non lo so. And so what they did is they brought me. E quindi quello che è stato fatto, mi hanno portato into another interrogation room. Mi hanno portato in un'altra stanza dove si fanno le interrogazioni. Once I was in there, e una volta che ero lì, they called me a stupid liar. Mi hanno chiamato stupida bugiarda. And they said that I was trying to protect someone. E hanno detto che stavo cercando di proteggere qualcuno. Sì, di fronte alla corte di assise di Perugia la giovane universitaria ha anche ammesso l'uso di marijuana durante un festino con i suoi amici, durante il quale avrebbe conosciuto Lumumba. Parlavate voi da studio anche dei media, soprattutto quelli anglosassoni. La mattinata si è aperta anche con il caos della stampa, dei media, visto che prima la corte ha autorizzato le riprese della testimonianza di Amanda e poi, rivedendo la sua ordinanza, le ha invece vietate in aula. Nessun commento invece da parte del pubblico ministero Mignini sulle accuse rivolte dalla stampa estera. Da Perugia è tutto per il momento. Grazie a Daniele Morini. Sul banco degli imputati, cioè un'americana, la vittima è un inglese e quindi ovviamente la stampa estera sta guardando con molta attenzione al processo di Perugia. Giulia Crivelli, cosa dicono di noi? Guarda, su tutti i giornali e anche sui siti, perché appunto abbiamo queste possibilità tecnologiche di seguire le cose in diretta, i giornali inglesi stanno seguendo molto da vicino la vicenda. C'è per esempio il Times Online, che ha articoli già da ieri e oggi di Richard Owen da Roma, dove si spiega appunto che oggi è il giorno della testimonianza di Amanda, ma ci sono archiviate anche senza dare per ora, a differenza di quanto hanno fatto ieri soprattutto i giornali americani, senza dare giudizi così pesanti sul modo in cui sono state condotte le indagini, giudizi negativi, di critica ai magistrati, agli inquirenti e adesso a questo processo in toto. E c'è tra l'altro una serie di allegati, per esempio un'intervista alla mamma di Meredith e al padre di Meredith. Si ricostruisce in modo interattivo tutta la situazione, un po' come insomma quelle ricostruzioni che vediamo fare anche noi in televisione. Ovviamente nessuno osa fare delle previsioni su come andrà il processo, che sappiamo è ancora tutto sommato in una fase iniziale. Grazie Giulia Crivelli, per oggi ci fermiamo qua con le pagine della stampa estera. Ieri, torniamo in Italia, la Camera ha approvato la legge che limita l'uso delle intercettazioni da parte dei magistrati e anche la pubblicazione da parte dei giornali. Non si potrà ripetere in sostanza, se la legge passerà definitivamente, un caso, per esempio come quello dei furbetti del quartierino, dove l'opinione pubblica venne a conoscenza del tentativo di distorcere le scalate bancarie, oppure il caso di Calciopoli, degli scudetti revocati, o anche il caso della clinica degli orrori, così fu ridefinita, ribattezzata la Santa Rita di Milano, dove le intercettazioni pubblicate sollevarono il velo sull'uso spregiudicato, in alcuni casi delittuoso, della sanità. In sostanza, 14 persone arrestate tra medici, assistenti e responsabili, 5 morti accertati e altre 20 morti sospette, più di 80 pazienti che hanno riportato lesioni gravi dopo essere stati operati e una truffa ai danni del sistema sanitario nazionale da 2 milioni e mezzo di euro. Micaela Nasca ha intervistato Laura Asnaghi, giornalista della Repubblica, che quel caso l'ha seguito di persona. Questi medici non sapevano di essere intercettati e quindi con il loro cinismo raccontavano nei dettagli un meccanismo che oserei dire bestiale, perché si trattava di massimizzare gli incrementi, gli introiti economici della clinica facendo interventi assolutamente inutili, proprio come in una sorta di bassa macelleria. Insomma, tutte queste cose non sarebbero venute a galla guardando le cartelle cliniche, invece attraverso le intercettazioni telefoniche emersa una realtà davvero agghiacciante. Quindi queste intercettazioni hanno permesso di spezzare la catena di reati all'interno della clinica. E cosa sarebbe successo se non si fosse avuta la possibilità di pubblicarle? Se la stampa non avesse avuto la possibilità di utilizzare queste intercettazioni, il caso Santa Rita sarebbe stato semplicemente e banalmente un caso di truffa ai danni delle casse della regione Lombardia. Invece si faceva del male alla gente, si facevano interventi, che so io, asportazioni di polmoni su una donna di 90 anni quando non era assolutamente necessaria, provocando dolore e sofferenza. Quindi c'è, un conto è il reato amministrativo e altro è l'accanimento sulla povera gente. Ecco, a partire proprio da questa esperienza e da questo caso, qual è la sua opinione sul disegno di legge approvato ieri alla Camera? Io trovo che questa sia una limitazione fortissima della libertà di stampa, perché senza quelle intercettazioni la gente non avrebbe davvero capito cosa significa, cosa si faceva all'interno di quella clinica. E così dunque la collega della Repubblica che ha seguito il caso della clinica Santa Rita di Milano. C'è un aggiornamento battuto ora dalle agenzie su una notizia della quale già vi abbiamo raccontato: un ragazzino che a Milano si è impiccato, così almeno erano le prime notizie, dopo vi abbiamo detto la nota di un insegnante. Bene, ora arriva una precisazione del preside della scuola, convinta, dice, che non fosse questo il motivo, ma che il ragazzino non si sarebbe suicidato, così dice, ma il suo sarebbe stato semplicemente un gioco finito male. La preside ha incontrato questa mattina i genitori del ragazzo e anche loro hanno escluso che la nota presa a scuola possa averlo indotto al suicidio. Probabilmente un gioco finito male. Adesso torniamo in Abruzzo, dove i comuni delle zone terremotate protestano, continuano la loro protesta, quelli esclusi dalla zona cosiddetta del cratere, e c'è anche chi sceglie le vie legali. Pochi soldi, promesse non mantenute, parecchia delusione. All'Aquila e nei paesi in provincia non si respira un bel clima fra i cittadini dopo che la Commissione Ambiente alla Camera ha bocciato le richieste della popolazione. 5 i punti su cui avevano insistito presidente della regione, della provincia e sindaco del capoluogo, fra i quali rimborso totale per la ricostruzione di tutte le abitazioni, comprese le seconde case, più fondi per la ricostruzione del patrimonio artistico e garanzie per gli espropri dei terreni sui quali dovranno essere costruite le case antisismiche. Fondi non ci sono, per questo gli emendamenti al decreto sono stati bocciati, eppure il premier Berlusconi prima del voto aveva promesso, almeno per le seconde case e per il centro storico, delle coperture finanziarie. Il presidente dell'ANCI Abruzzo torna a chiedere una tassa di scopo, senza, dice, per l'Aquila non c'è futuro. Intanto i comuni della Valle Peligna, esclusi dalle agevolazioni fiscali, ricorrono al TAR. Il primo a farlo è stato quello di Intro d'Acqua, a cui seguiranno fra oggi e domani altri 13 comuni. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore, L'Aquila. Cambiamo davvero tema, perché ci sono i consigli del nostro gastronauta Davide Paolini. Per una straordinaria serata, sottolineo quel straordinario, il posto che vi suggerisco oggi è a Sant'Agata dei Due Golfi, un posto da dove si vede un panorama straordinario, ma dove c'è anche un ristorante altrettanto straordinario che si chiama Don Alfonso. Qui l'ospitalità è davvero meridiana, il cibo è molto sudista, ma è un cibo sicuramente straordinario nella materia prima. Basta prima di mangiare o dopo aver mangiato andare nell'orto di Alfonso. Ebbene, si vedranno tutte le materie prime che vengono usate in maniera davvero eccellente in questo ristorante. È una vista davvero unica al mondo. Cosa si mangia? Ebbene, il menù è molto ma molto vasto. Difficile non trovare un piatto per i propri gusti, o un dolce, o una pasta, o un pesce, oppure anche la carne. Lasciatevi mettervi nelle mani del maître e sicuramente sarete ben consigliati, così pure sarete ben consigliati dai due sommelier in sala. Lo ricordo, Don Alfonso a Sant'Agata dei Due Golfi. E sono le 13:46 minuti a GR24 Extra Large. E come detto, allora andiamo con il voto in Iran. Si parla di una grande partecipazione, sembra molto alta anche l'affluenza al voto da parte delle donne. Le operazioni di voto saranno in ogni caso piuttosto lunghe. Qual è il clima, insomma? Come stanno procedendo le operazioni? Lo chiediamo ad Adib Fateh Ali, che è un appuntamento consueto per quanto riguarda il mondo arabo. Adib, come sta andando a Teheran? Guarda, se avessi un valore statistico e giro di telefonate, una ventina che ho fatto a terra di persone che uscivano dai seggi, a terra sarebbe un plebiscito totale per al-Mousavi. Assicuro di aver parlato con varie persone, tra i quali due almeno hanno dichiarato di avere dato il voto ad Ahmadinejad. Sono tre, a parte la grandissima partecipazione delle donne, moltissimi hanno dichiarato di aver impiegato più di 2 ore di fila. Altri non si ricordano di avere mai avuto un'affluenza, se non nel 79, la prima elezione, quando ci fu la rivoluzione di Khomeini, insomma. Amo ricordare tre frasi detti, perché gli argomenti principali sono la politica estera, la libertà e la crisi economica. Questi sono i tre temi che probabilmente potrebbero scansare, cioè togliere di mezzo Ahmadinejad, almeno quello è l'impressione che ho avuto. E Adib, vogliamo anche ricordare che oltre a Ahmadinejad, il presidente uscente, diciamo il candidato che potrebbe scalzarlo, chi è? È decisamente al-Mousavi, tutti è per al-Mousavi, queste rivoluzioni di velluto, queste raduni oceanici che ci sono nelle piazze di Teheran con colore verde, e sono assolutamente, decisamente per al-Mousavi. Io c'ho una ragazza, Miriam, che mi dice: io amo Rezaei, però il voto l'ho dato al-Mousavi perché spero si arrivi al ballottaggio, e allora i seguaci di Karrubi, Rezaei, daranno tutti il voto al-Mousavi e solo così possiamo togliere di mezzo Ahmadinejad. Una signora, che è la moglie di un imam di moschea, si chiama Huda, mi ha detto: se sto a quel che vedo in giro per la città, 3/4 degli abitanti di Teheran voteranno per il signor al-Mousavi. Ma ci sono anche altri che hanno sempre dato il voto ad Ahmadinejad. Oggi sono anche affascinati dalla sua politica nei confronti dell'Occidente, però non se ne può più di questa crisi economica, non si può supportare 150% in più dei prezzi delle case, non trovare le medicine. Insomma, potrebbe cambiare davvero il volto di chi rappresenta l'Iran. Grazie ad Adib Fateh Ali, naturalmente vi terremo aggiornati su quello che sarà l'esito. Questa musica potrebbe anche sembrare dedicata all'Iran, in realtà è dedicata al vicino paese dell'Armenia. Vogliamo tornare qui anche oggi, un paese cristiano confinante con l'Iran, strategicamente però molto vicino a Teheran. In diretta Cristina Ballottelli. Sì, buongiorno Alessio, buongiorno Anna e buongiorno a tutti. Io mi trovo in Armenia, nella capitale, Yerevan, ma nel corso di questo viaggio che ho fatto insieme ad altri giornalisti europei per visionare alcuni progetti finanziati dall'Unione Europea qui in Armenia, abbiamo anche incontrato, pensate, 2 giovani iraniani provenienti da Isfahan, e questo a dimostrazione del fatto che parecchi iraniani sono presenti qui in Armenia, non solo per commercio, per business, ma anche per motivi di studio oppure per turismo. razzismo, o semplicemente per venire a vedere le donne armene che non portano il velo, mentre le donne nel loro paese, come sapete, portano il velo, oppure per bere, perché qui si può bere liberamente, cosa che non possono fare in Iran. Con loro ovviamente abbiamo parlato anche delle elezioni, però quello che volevo soprattutto sottolineare è che l'Iran è un partner commerciale molto importante per l'Armenia, come ci ha detto in questa intervista Gajik Makarian, che è il presidente degli imprenditori armeni, praticamente il presidente della Confindustria armena. Possiamo sentire un pezzo dell'intervista. This election and this vote very important for Armenia because we would like to see democracy development in neighboring. Makarian ci ha detto che la cooperazione economica con l'Iran è molto importante, quindi anche questo voto viene osservato da vicino dagli armeni. Perché è importante? Innanzitutto perché l'Armenia, se non avesse rapporti con l'Iran, si troverebbe circondata da paesi con i quali non ha alcun rapporto commerciale, perché le frontiere sono chiuse, non ha nemmeno rapporti diplomatici, e cioè parliamo della Turchia e dell'Azerbaigian. Con la Georgia ha dei rapporti, però a volte ci sono anche con la Georgia dei problemi politici, resta quindi l'Iran, altrimenti si rischierebbe l'isolamento. Altro fattore importante è che l'Iran, come sapete, è un paese ricco in risorse naturali, gas, petrolio, e queste risorse sono ricevute dall'Armenia. Non solo, l'Armenia ha in atto una cooperazione energetica molto importante con l'Iran, e quando il gasdotto che si sta costruendo sarà a regime, il gas iraniano verrà trasportato tramite l'Armenia in Europa. L'Iran inoltre è anche un mercato parecchio importante per l'Armenia, perché con i suoi 70 milioni di abitanti l'Armenia lo vede come possibilità di incrementare l'esportazione dei suoi prodotti. Inoltre non dimentichiamo che l'Iran è stato tra i primi paesi che, una volta uscita dall'Unione Sovietica e proclamata l'indipendenza l'Armenia, appunto l'Iran è stato tra i primi a riconoscere questa indipendenza, quindi diciamo che l'Armenia gli è in qualche modo grata e ha ottimi rapporti. Tra l'altro c'è una comunità armena molto presente in Iran, rispettata, e per cui ci sono ottimi rapporti tra i due paesi. Con questo vi restituisco la linea. E grazie a Cristina Balotelli. Gheddafi incontra gli imprenditori e promette: le imprese italiane avranno la priorità in Libia. La rivoluzione Gelmini arriva nei licei, nasceranno quello musicale e quello delle scienze umane, latino per tutti e più matematica. L'FBI scopre 50 milioni di dollari trafugati a multinazionali delle comunicazioni per finanziare terroristi vicini ad Al-Qaeda, la base nell'italianissima Brescia. Iran al voto, in fila per decidere il futuro del discusso Ahmadinejad, molte le donne, vero ago della bilancia. Amanda sul banco dei testimoni per l'omicidio di Meredith a Perugia. America e Gran Bretagna stanno a guardare e piovono critiche sulle indagini italiane. Tanto rumore per nulla. Dopo i litigi, la Ferrari iscritta al prossimo mondiale di Formula 1, ma il cavallino dice: non ci staremo se non cambieranno le regole. Era tutto per questa edizione del GR Extra Large. Anna Migliorati, Alessio Maurizio in studio, al coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Pietro Lacorte. L'appuntamento per oggi si conclude qui, ma Extra Large torna come sempre lunedì a partire dalle 13. Buona giornata. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.